Andare alla Zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta. Questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta. Io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle ironie sul terremoto, allora ciao. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ragazzi, è semplice. Se credete che l'inno nazionale vada riscritto da Ruggero dei Timidi, o volete dire che dell'impianto di Carminati non ve ne frega un cazzo di niente, o volete andare a cagare Parenzo in diretta, 800240024. Se invece volete parlare delle vostre ricottine, o semplicemente lavorate per la Pricewaterhouse e volete segnalare gli stronzi galleggianti di Cruciani, o volete andare a cagare Parenzo in differita, 393-7171-701. Siamo al Titi la Milanto. Titi la Milanto, infila pure il dittino come dentro un budino, dai che non è strano. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ma buonasera, buonasera miei piccoli schifosini. Iniziamo subito con una cosa seria. No, dottore, ha sentito sigla? Andato a cena con Presidente Nelo, signor Obama. Andato a cena con Obama, Tronchetti e Plovella. Tanta gente, signora Malcegaglia. È la cena, non partecipa a trasmissione. Ha sentito titillami, non vuole titillare. Ma scusa, ma ti sarei fatto... Scusami, però la domanda è molto semplice. Come ci ha suggerito ieri l'amico Ruggero dei Timidi, ma ti sarai mai fatto mettere in vita tua un dito nel culo? Sì o no? Sì. Dottore! Sì. È andato alla cena Obama, Presidente Nelo. No, palla di queste porcherie. Ah sì, ma pure Obama, dalla signora, no, alla dottore, moglie, dottore. Si sarà fatto infilare. Ma è normale, è signora, la normalità più assoluta. Signora Michelle, no. Sì, non fa queste cose. Non fa titillo, vabbè. Ragazzi, mi sembra veramente la cosa incredibile. Cioè, il signor Parenzo qui adesso... Questo è quel criminale. Qui, questo regista qua andrebbe veramente impiccato... No, portato a Guantanamo prima. Sì, va torturato. Torturato no, però va rieducato. Sì. È una porcheria, uno accende, imprendito. Siete degli assassini delle imprese. Ma è una cosa incredibile. Uno sale in macchina di sì, manager, sì, no, sì. Io immagino anche ieri sera dopo quella cena spettacolare con Obama, ma anche altri grandi manager, capi di grandi imprese, salgono in macchina e dicono: ah, rilassiamoci un po', sentiamo un attimo la chiusura dei mercati, com'è la situazione, vediamo cosa fa la radio economica del Sole 24 Hours, accendono e sentono con il signore Lugello che canta titilla titilla piano piano, è la porcheria inaudita, dai, siete degli assassini a Milano, assassini delle imprese, assassini, sì, beh, anche non solo, ma proprio della morale pubblica, cioè date un'immagine di degrado di questo paese, che non è, perché non è che la gente torna a casa noi. E dice alla moglie di titillare lì, dai, beh, sì, ma assolutamente, ma dovrebbe, che perché mai una porcheria, se una donna è non una ha porcheria, mai è una se porcheria. Io faccio qui un proclama, se no, una donna proclama, non ha mai titillato l'ano, titillato l'ano del a proprio uomo, poi, del ma proprio a uomo, non è una vera donna, non è una vera moglie, ma ma scusami, abbi pazienza, ma tu mi spingi verso questa cosa. Mi fai dire, volevo parlare della Boschi e delle banche. Ah, oh, bravo. Volevo parlare di questo. Mi hai spinto tu a dire, a fare questo proclama. Parliamo del grande Ferruccio De Bortoli. Sì, il primo proclama di oggi è questo. se una donna non ha mai messo il dito nell'ano del proprio uomo, non è una vera donna. Diciamola tutta, basta. Gli aforismi dopo quelli di Oscar Wilde sono quelli di Cruciani, non ho capito. Le grandi massime. Cosa scriveranno sulla tua tomba? Scriveranno questo? Che scriveranno? Bah, non sarei dispiaciuto. Non sarei dispiaciuto. Parenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Una prostituta che andò nella settantenne, prostituta dal camper. Andiamo avanti, va? Allora, ragazzi, fosse vero quello che racconta il signor De Bortoli nel libro. Sì. Io dico, fosse vero, tu lo dai per scontato. È vero, ma fosse certo, vero, De Bortoli fosse... un giornalista autorevolissimo. Cioè il fatto che, poi chiudiamo però questa parentesi, sì, poi voi potete intervenire. Fosse vero che la signora Boschi, da ministro, bravo, è ancora ministro in realtà, sì, sottosegretario, la ministro cazzo, nel precedente governo, disse ai banchieri di Unicredit se compravano la Banca Etruria, o comunque se mettevano dei quattrini per salvare la Banca Etruria, dove lavorava il padre e il fratello, si dovrebbe dimettere all'istante, ma per due semplici motivi: uno, per un conflitto di interessi abbastanza evidente; secondo perché ha sempre detto di non essersi mai interessata della questione delle banche. Chiudiamo tutto. No, ecco, 18:41. Chiudiamo questa parentesi. E domani ritorniamo. Perché così la gente ha tempo per ragionarci sopra. Non bisogna ragionare, riflettere. Ha detto studiare, che non si è mai interessata. Capire. No, ma la gente ha bisogno anche, non si può andare sull'estintività, perché adesso la gente chiamerà 800 esatto, maledetti, ma perché qui ci sono sempre toni alti, non è che c'è riflessione, dice, ma come mai allora la ministra è intervenuta? No, bastardi, maledetti vampiri, no, ma sanguisughe. Ma quello è dalla vostra parte, però quella è dalla vostra parte, che c'è? Però vedi la differenza tra il titolo del libro di Ferruccio De Bortoli, Poteri forti o quasi, sobrietà, understatement, però dritti a... vampiri, sanguisughe, ma maledetti c'entra? È una differenza, come dire, no? Vabbè, ma che vuol dire? Dai. Io dico di approccio. Allora, la vicenda Zuccaro. Adesso mi scriverà. La vicenda Zuccaro, Parenzo, attenzione. No, Zuccaro non voglio sentire. No, ma non voglio sentire parlare di Zuccaro. Voglio che Zuccaro parli solo attraverso le sentenze, attraverso il rinvio a giudizio, quando aprirà dei fascicoli, cosa che ancora non ha fatto. Il signor Zuccaro non lo voglio più sentire. Mi sono anche inventato una canzoncina. Basta un poco di zucchero, il migrante va giù. Non me l'ha inviato un ascoltatore, in realtà. Sì, un basta un poco di zucchero, il migrante va giù. Appunto, basta un poco. Ecco, questo dovrebbe farci riflettere sul fatto che le due stragi che ci sono state ieri di migranti, dove sono morte 245 vittime, qualcuno indagasse su quei morti, non sulle ONG. Qualcuno indagasse su quei 245 vittime morte. Ah, sì, oddio, parla, intanto senti questo. Basta un poco di zucchero e la ONG va giù, la ONG va giù, la ONG va giù. Basta un poco di zucchero e la ONG va giù, tutto brillerà di più. Io l'ho leggermente trasformata. Tu hai messo il carico da 90, perché tu fai parte di noi con Cruciani. Basta ovviamente un poco di zucchero e il migrante va giù. Ma non in senso, per carità, cioè non in senso positivo, non mi auguro che un migrante va giù. Era un'associazione, c'è stato questo naufragio eccetera, con dei morti. E allora criminale. Basta un poco di zucchero e il migrante va giù. Il migrante va giù. Il migrante va giù. Vabbè, dai. Comunque Zuccaro è andato alla commissione antimafia. Ma cosa fa il giro delle commissioni? Vabbè, lo invitano. Ma che cosa fa il giro delle sette chiese? Dove vate? Se lo invito anche a casa mia, vieni, dai, vieni a Parioli, su, forza Zuccaro, vieni anche a casa mia. Ma e perché così ce l'hai tanto con Zuccaro? Vieni a Prati, vai a Piazza Trieste. È mio vai mito a Piazza Zuccaro. Ci ha lasciato, come dire, ci ha indicato una via. Un faro, una luce. Il giro delle commissioni. È uno squarcio anziché... nel buio del politicamente corretto, dell'ovvio. Ma quello deve fare il PM. Non è Donato da Varese. È un PM. Non è Donato da Varese. Senti questa cosa, ti incazzerai. È un'ipotesi di lavoro il contatto tra ONG e trafficanti. Cosa vuol dire un'ipotesi? È un'ipotesi di lavoro. Cazzo, come al solito. Non c'è un cazzo come al solito. Soltanto un'ipotesi di lavoro mi consente di dire che qualche ONG possa essere finanziata dai trafficanti. Non ho mai detto soltanto di soltanto un'ipotesi di lavoro, cioè, mi consente di dire che lei, virgola, caro Zucchero, in mano non ha un cazzo. Lo dico con rispetto. Aspetta, eh, aspetta, non ho mai detto di avere elementi probatori. No, vabbè, è una cosa incredibile. Una cosa incredibile. Senti. Mai ho detto che avevo un solo elemento di probatorio in questo senso. Allora, De Bortoli scrive esattamente: l'allora ministra delle riforme nel 2015 non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. Beh, è clamoroso. Quando è che chiudete, cornuti? La Zanzara. La bocca di Parenzo è utile solo a foderare il pisello di Soros. Allora, a proposito della vicenda dei due dipendenti della Lidl licenziati, Parenzo, noi non molliamo su questa cosa qui, eh. Io almeno non mollo, non mollo, non mollo. Le Rom ladre libere, le Rom ladre libere. I due signori che hanno semplicemente postato un video su Facebook, su internet, dove cazzo è, licenziati. Non ci siamo. Licenziati per aver scherzato con una Rom ladra. Scherza. Per una Rom ladra, chiaro? Sei l'avvocato della difesa. Signor, non mi interessa, non faccio l'avvocato, non mi interessa. È una mia posizione, sono convinto di quello che dico. Il signor Zurita, Ramon Zurita, che è stato anche ospite in questa trasmissione, ieri si è presentato alla trasmissione Quinta Colonna. Quinta Colonna. Lo rifarei, era uno scherzo. Sì. Lei lo rifarebbe? Io non è che non lo rifarei, era uno scherzo, quindi in quel senso sì, in quel senso lì lo rifarei, perché era uno scherzo. Viste non era, le conseguenze, non c'era però, stata magari, no? Violenza, sì, le conseguenze sono state dovute purtroppo che questo video è uscito. Poi si mette a litigare con la signora Fusani. Che divertimento è? Chiudere due persone in una gabbia, ma e farle urlare. Divertimento. No, l'ha detto lei. Abbiamo fatto per fare uno scherzo. Che scherzo, ma uno scherzo con lei, perché comunque si era sempre a ridere. Era un rapporto che c'era fra noi e la zingara, scusi, che lei purtroppo lì in quella zingara. No, no, mi scusi, io non voglio neanche dire che lei non ci poteva andare, ok? Ma ti rendi conto che si è arrivati al punto che non si può dire nemmeno la parola zingara? No, lo diceva scherzando, cioè, può... ironicamente, lo diceva sì, ironicamente. Sì, sì, ma qualcuno dice che non si può dire la parola zingara, ma vi rendete conto se no? Se è ritenuto dispregiativo da loro, non usiamo. Ma chi non se ne frega? Niente, ma a me me ne frega? Scusami, Davide, a me non me ne frega niente di quello che pensano loro. Come non va usata, te l'ho detto mille volte, la parola clandestino? Non esiste ma il se concetto uno entra in Italia e non è autorizzato a stare in Italia, è clandestino o no? No, non esiste il concetto di clandestino. Esiste il concetto di migrante, cercatore di felicità. No, ma senti questa roba, senti. Poi litiga con la Parietti, il signor Zurita. Zurita. La Parietti? Sì. Signori, siccome si tratta di una Rom, adesso vi faccio un po', scusate, di esame di coscienza, dite... cioè, come dire, cosa ha fatto di male, lui ce l'ha spiegato, in fondo sembra anche una spiegazione plausibile, più o meno quella che danno i bulli, però quando per esempio violentano le donne, quando le mettono in mezzo, quando si tratta di donne italiane, no, scusate, calma. Allora, questa è una forma, che lui lo voglia o no, che se ne sia reso conto o no, ma di grave mancanza e di grave bullismo. Cioè, praticamente come, come violentare le donne. Ma dai, su, ma è una cosa ridicola, signora Parietti, dai, su. Beh, ridicola, dice una cosa forte e eccessiva, però non c'è molta differenza tra chi dai. Poi dice l'ho fatto solo per scherzo e lo scherzo gli piglia la mano, eh. Allora, ieri ho visto, durante sempre Quinta Colonna, una discussione incredibile sulla vicenda degli animali, come al solito. C'erano praticamente tutti. C'erano... Tra cui anche il mitologico signor Mocavero. Mocavero. È tornato a parlare Mocavero, associazione 100% animalisti, sono praticamente il braccio armato dell'animalismo, chiamiamolo così, anche se non sono armati. Ricordiamo, il signor Mocavero era un esponente a della Padova. Di destra. Di Forza Nuova, dell'estrema destra estrema. Il cacciatore buono è solo quello morto. Non il cacciatore buono è solo... Arrestarlo, ma perché? Cioè, perché dovrebbero arrestarlo? Beh, intanto per tutelare lui stesso dalle sue stupidaggini, quindi se lo metti in una galera. Il cacciatore buono è solo quello morto. Se lei mi dice che noi diciamo il nostro slogan cacciatore buono è solo quello morto, le dico sì e glielo confermo. Non posso dirle sparare al cacciatore. Provo soddisfazione se un cacciatore muore. Vabbè, il classico di Mocavero. Caro Mocavero, mi dispiace per te. La caccia è esistita, esiste, sì, certo, ed esisterà sempre. Noi qui siamo uno dei grandi baluardi della caccia italiana. Questo è vero. Grandi difensori dell'istituzione caccia. Siamo a favore della caccia. E dunque noi difenderemo sempre a spada tratta la caccia da chi la vuole abolire. Per carità, le regole, le cose... Ma siamo a favore, chiaro? I cacciatori sono persone normali e vogliono bene agli animali più di quanto non li voglia bene tu, chiaro? Questi signori hanno appena detto che l'unico cacciatore buono è quello morto. Assolutamente. Ma sì. È quello sensibile. Su un cacciatore ci lascia le penne, ha presente il gol di Keita con la Lazio, l'ultimo derby? Stessa soddisfazione. Beh, sì, io ho provato soddisfazione a quel gol, però non è proprio la stessa cosa. Questo era marcato. Sì, l'altro. Dalla voce. No, è Mocavero. Va bene, Daniele Ravenna, vai. Salve, buonasera. Dimmi. Io ti voglio dire una cosa, io sono un camionista. Sì. E a me mi fa incazzare, Parenzo, quando associa il camionista alla violenza, al violento. È una cosa veramente, è come dire che i giornalisti sono tutti servi dei poteri forti. Quando è che ha detto che il camionista è violento? Tutti i giorni associa i camionisti violenti, tutti i giorni. Ma non mi pare che dica che i camionisti sono violenti. Scusa, non devo fare il difensore d'ufficio di Parenzo, ma non è... Ok, uno dice, mi ha detto violento, però non è vero. Io so che... Un'altra cosa voglio dire. Il signor Parenzo ha mai subito un furto in casa di zingari? No, non ha subito, credo. No, David, hai subito un furto in casa? Io ti dico che sono i momenti più brutti della mia vita. Mia moglie non si svegliasse. Sperare che la mia bimba non si svegliasse. Non c'è dubbio che è un momento brutto, è bruttissimo. Non lo augurerei a nessuno. Aspetta. Forse solo a Mauro da Mantova. Sentire questi in casa che ti girano in camera e non puoi fare niente. No, io sono giusto che mi armo e se tu entri in casa mia io ti sparo e ti ammazzo. Perché a casa mia io voglio essere tranquillo, voglio dormire in tanta pace. È già così. La informo, caro esponente dei noi con Salvini e noi con Cruciani, la informo che lei già in casa, ancor prima dell'approvazione di questa legge che ancora non è legge, che hanno detto l'altro giorno, allora? Lei già adesso può sparare. La informo di questo. Se Daniele può difendere. Daniele, non quindi vorrebbe non fate avere cazzi. Propaganda non inutile. Vuole avere cazzi. Ma se spara può avere ad alzo zero dentro non li casa, avrà. Parenzo, non li avrà. Io non dormo più la notte. Controllare se c'ho l'allarme inserita. Io dormo con mia figlia e mia moglie in camera. Ma questo lo immagino. Perché mi ha cambiato la vita. No, non lo allora immagini, non lo immagini, io non lo immagini, spiego, non lo immagini. Io ti auguro veramente che ti succeda a te. Grazie, e poi cara, ti rendi molto conto gentile. Se difendi tutta questa gentaglia. Questo molto è gentaglia, gentile, molto gentile. Grazie, la gente molte. È buona perché c'è anche gente buona di quelle persone là. Daniele, che si alza Daniele la come, va, come va nelle okay. piazzole lì? Come va nelle piazzole? No, io ho smesso di. Io adesso faccio un locale, però ti garantisco che mi sono divertito tanto, Cruciani. Che vuol dire ti sei divertito? Non ho capito. Di tutto e di più, all'estero, in Italia, lascia stare Parenzo. Hai ragione te quando dici che un uomo che non so fatto mettere un dito nel culo di una donna, la donna non è donna da letto. È un intellettuale magari, questo ragione, è un intellettuale che è cresciuto alla lei è cresciuto alla scuola di Einaudi. Scusi professore, lei è cresciuto alla scuola di Einaudi, immagino. Fermo, si fa il culo questo Parenzo. E questo si capisce da quello che fa sua moglie. Questo si capisce da quello che lei ha detto che le fa sua moglie, quindi questo si capisce. Dai, Zucchero, non si molla un cazzo! Siamo tutti con te! Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero, la la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero, la la la la, Zucchero. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. La Zanzara. Buonasera e benvenuti dalla vostra parte. Ma non me ne frega un cazzo a me del signor Toros, perché tanto non mi dà niente. Sogno e Parenzo, avete rotto proprio i coglioni, il mio ragazzo pensa solo a voi e non a me, andate a fanculo. Cruciani, ma che uomo di merda che sei. Cruciani, ti amo perché sei ripugnante. Allora, quinta colonna ieri sera, c'era un signore che si chiama Filippi, un cacciatore, uno che ha istituito un premio un po' ironico che si chiama Premio Hitler. Premio Hitler. Beh, ironico, non c'è niente premio di ironico. Hitler per diciamo, l'ambientalista, l'animalista dell'anno, diciamo così. Anche se lui è un cacciatore, dunque li vuole un po' pigliare per il culo. Scontro con Mocavero. Ecco, Mocavero, per chi non lo sapesse, è un signore un po', diciamo, in carne, quello non vuol dire nulla ovviamente, però giusto per raffigurarlo, per presentarvelo, sì, signor sì, Paolo Mocavero, 100% animalisti, estrema destra prima, poi passato all'animalismo. Signor Mocavero è uno che sostiene che e il la cacciatore... cosa è uguale, no, evidentemente. Ma no, ma ci sono delle assonanze. Signor Mocavero sì, destra, sostiene animali, certo. Ma dai, su, no, che c'entra, dai, dicevo, ma non puoi dire che tutti quelli di destra sono animali, dai, su, non no, dire cazzate, di destra, dai. Di estrema destra. Comunque, questo signor Mocavero, dopo essere passato dall'estrema destra all'animalismo, è diventato una specie di odiatore di tutti quelli che hanno a che fare col mondo animale, cioè quelli che trattano col mondo animale, dai macellai ai cacciatori. Dei cacciatori ne dice praticamente di ogni. Filippi contro Mocavero, senti. Il sottotitolo del premio è un premio a chi calpesta i diritti umani in nome di ideologici diritti degli animali. Tu hai calpestato, infatti, e tu hai calpestato i diritti di chi? Di quei Nagers è morto? Vergognati! C'è un chiaro riferimento vergognati. Storico. Infatti, la prima legge di matrice animalista che parlava di diritti degli animali è stata firmata proprio da Adolf Hitler nel 1933. Il regime nazista, che era sostenitore dei diritti animali, addirittura in Prussia Göring ha abolito la sperimentazione animale, e dopo sperimentavano sulle persone all'interno di questa ma vai a scuola, non capisci niente. Prima andato il dottor Giordano ha sintetizzato, dite di essere... No, ma la cosa più incredibile di questo Filippi è che dice: sono un cacciatore, caccio cervi, caprioli, cinghiali, allevo visoni, sono un amante dei circhi, cacciatore, praticamente un mio idolo. Io il cervo, piuttosto che il daino, il capriolo, sono le mie prede preferite. Ho preso diversi bei cinghiali, come si vede dalle zanne che ci sono qua. In totale quanti trofei sono? Ne hai mai contati? Meno di 200, tra qui e dall'altra parte. Ho esposto, tengo quelli che, a cui tengo in maniera particolare. Sei famoso per essere un cacciatore, sì. Un allevatore di visoni, sì, esatto. Un amante del circo e degli zoo, sì. E un sostenitore della ricerca sugli animali anche. Assolutamente sì. Ma ragazzi, ma sono tutte cose normali, viene presentato come un mostro, sì, i mostri sono, sì, gli altri, sì, esatto. Cioè questo Filippi potrà anche essere un personaggio bizzarro, l'abbiamo già ospitato noi alcune volte, però dice delle cose normali, cioè sono a favore, sì, dei visoni, è un amante dei circhi, visone, cosa legale, me, insomma, sì. No, ma è una cosa legale i circhi, cioè non è che è una cosa assurda, ma ci mancherebbe, è un altro. Cacciatore, caccia i cervi, ma sempre regolarmente, mica fa il bracconiere, bracconiere, cioè caccio, sì. Cervi, caprioli, cinghiali, cose che dovrebbero essere normali e vengono viste da alcuni come una sorta di follia. Senti anche quando dice si lavano le pelli, credo che parli dei visoni, no? E si incidono i tendini. Senti. Impressionante. Si lavano gli animali, praticamente vengono stesi su questi scaffali qui, perché devono raffreddare, vengono incisi i tendini perché poi la scuoiatura viene fatta a macchina. La scuoiatura degli animali. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Andiamo a Federico, provincia di Modena. Vai, vai, vai. E buonasera Cruciani, dimmi, buonasera dimmi. E niente, allora io solitamente sono faccio parte della maggioranza silenziosa, quindi solitamente mi sento dalla parte di Parenzo, però bene, volevo un attimo riportare la mia esperienza di stamattina, che io come tutti i giorni sono andato a lavorare e sì, mi ritrovavo nel mio cantiere, io faccio il geologo, allora? Con me stavo lavorando e praticamente si avvicinano questi due tunisini e probabilmente spacciatori che ci prendono un estintore da questo luogo abbandonato, ce lo tirano contro mandandoci via dicendo che facevamo rumore, loro non potevano lavorare e che arrivava la polizia. Cioè, non ho capito, allora riassumiamo la questione. Due tunisini hanno preso un estintore e ti hanno aggredito? Sì, ma aggredito, per quale motivo? Scusa, per perché quale noi motivo? Stavamo lavorando in questo cantiere. Tu vabbè, ma hai denunciato o no? Scusa, però è un piccolo episodio di evidente aggressione. Non abbiamo denunciato perché la storia è finita lì, nel senso che noi. Ma perché ce lo racconti? Scusa, qual è il significato di questa cosa? Il significato è che se io avessi avuto un'arma o qualcosa per difendermi, io proprio avrei aggredito proprio, cioè, assolutamente per difendermi. Non ho capito, quei due tunisini con l'estintore verso di te, tu avresti sparato a questi tunisini? Sì, sì, senza ombra di dubbio. Ma Renzo? Ma assolutamente anche senza carriere. Lei non fa parte della maggioranza silenziosa, lei evidentemente ha perso il controllo, ma può tornare a ragionare, a ritornare a essere il controllo, scusa, può perché tornare a essere una persona normale. Scusa, Federico, come in che zona ti trovavi esattamente? Cioè dentro il luogo di lavoro? Comunque sì, dentro al cantiere, un cantiere denunzi tutto, denunzia alle autorità. D'accordo. La maggioranza silenziosa denuncia alle autorità competenti e non prende le armi in mano per sparare, ai cosiddetti tutori dell'ordine, capito? Ma scusami, se questi qua siamo d'accordo, io capisco anche l'elemento della paura, ma l'uso della forza, dice la maggioranza silenziosa, è di esclusiva competenza dello Stato. Ma anche se ti arriva un estintore ma scusa, questo con un estintore in mano è la stessa cosa del signor Placanica. È legittimo difendersi, sicuramente. Però sparare al tunisino con l'estintore non si può, dici te, è eccessivo. Eccessivo, no, non eccessivo. E quindi cosa devo fare? Quindi prendermi prenditi l'estintore in testa. No, io non ho detto questo, scappare, gambe levate, o scappare o prendere l'estintore. Gambe levate e nello stesso tempo chiamare le autorità competenti, dopodiché denunziare sia esso magrebino, sia esso filippino, sia esso tunisino, sia esso di noi con Salvini, sì, qualunque categoria. Ma quello che succede è che dopo io chiamo la polizia arriva, ovviamente non c'è più nessuno, il giorno dopo io ritorno lì e ne prendo altrettante perché ho avvertito la polizia. Vabbè, Federico, ciao. Allora, a proposito della vicenda della Boschi, accusata da De Bortoli nel suo libro di avere tramato da ministra per far questo acquisire la Banca Etruria da parte di un'altra banca italiana, ve la riassumo in questo modo. La signora Boschi ha replicato così: la storia di Banca Etruria viene ciclicamente chiamata in ballo per alimentare polemiche. Vediamo di essere chiari: non ho mai chiesto all'ex AD di Unicredit Ghizzoni né ad altri di acquistare Banca Etruria. Ho incontrato Ghizzoni come tante altre personalità del mondo economico e del lavoro, ma non ho mai avanzato una richiesta di questo genere. Sfido chiunque e ovunque a dimostrare il contrario. E siccome sono stupita per questa ennesima campagna di fango, stavolta ho affidato la pratica ai legali per tutelare il mio nome e il mio onore. Cioè, sostanzialmente dovrebbe querelare in teoria il signor De Bortoli. Chi è in difficoltà per le falsità di Palermo, per i rifiuti di Roma, non può pensare che basti attaccare su Arezzo per risolvere i propri problemi. Voglio dire a signor Boschi che non c'entra una mazza, però i rifiuti di Roma, della Raggi, nulla. Roma che sarebbe piena di rifiuti. A proposito, tu vedi Roma piena di rifiuti? Io vedo Roma piena di rifiuti, vedo anche la zona di casa mia, che non è come tu ricordi, la periferia. Vedo ad esempio dei gabbiani che svolazzano ad altezza d'uomo. Quello sempre. Cavolo, il gabbiano è segno di sporcizia. Gabbiani che svolazzano ad altezza d'uomo, sembrano degli aerei che planano nelle zone di Piazza del Popolo, dei Parioli, eccetera. Vedo topi che corrono alla velocità della Roma luce. Della Raggi come una sorta di fogna a cielo aperto. Hai usato delle parole esatte, è quello che io documenterò da domani in un reportage esclusivo che potete seguire su Instagram di Parenza. Bene. Da domani c'è questo reportage gratis, reportage esclusivo. Bene, intanto Carminati chiama Napoli, non è possibile, continua ancora. Cioè Carminati, Massimo Carminati, ex NAR, contatti con la banda della sono Maglia, quello che abita là. Sì, sono quello che abita là. Il cecato mafia capitale chiama Napoli. Pronto? Io mi chiamo Massimo Carminati, senti il nostro nome. Pronto? Massimo Carminati, segnalo. Capito? Segnatelo. Massimo Carminati. Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi sono io. Ma per fare cosa? Segnati il tuo nome, ascolta a me. Così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Ma pro di che cosa? Non ho capito. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Se veniamo a fare l'impianto? Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Il telefono? Ma che telefono? Di cosa? Io mica faccio impianti telefonici. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Ma l'impianto di cosa? L'impianto se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Signor Carminati, un attimo soltanto, io sono una ricetta condizionatore caldaio, cosa c'entro con i telefoni? Io sono quello che abita là. Abita là dove? Io sono quello che abita là. Ma là dove? Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Ma di cosa sta parlando? Non se non mi attaccate al telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Ma Michi, cioè, lo sa con chi sta parlando, no? Io non c'entro niente con i telefoni, che c'entro? Posso capire di cosa sta parlando? Massimo Carminati, segnalo, così vai su internet e vedi chi sono io. Ma per che cosa? Per cosa mi contatta? Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Signor Massimo, ma l'impianto di cosa? Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Signor Massimo, io non faccio impianti telefonici, ha sbagliato numero, forse non mi sono spiegato. Io sono quello che abita là. Ma là dove? Che cosa? Io non faccio impianti telefonici. Massimo Carminati, segnalo, così vai su internet e vedi chi sono io. Signor Massimo Carminati, io lo ripeto per la quinta volta, io non faccio impianti telefonici, ha sbagliato segnalo numero. Segnalo il tuo nome, ascolta a me, così no. Vai su internet e senti e sai chi cazzo sono io. Ma che mi devo segnare il numero se no... ha sbagliato numero. Massimo Carminati, segnalo. Massimo Carminati, io ha sbagliato numero, io non faccio questo lavoro. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, capito? Ho capito, ha ragione, faccia quello che vuoi. Cioè, io non sto capendo. Io impianti telefonici non ne ho mai fatto, non è il mio lavoro. Se non mi attaccate il telefono entro domani, a me non me ne frega un cazzo, vado su spazio, poi venga a cercare te. Ma io come l'attacco il telefono? Con la colla? Se mi spiega come si attacca il telefono, anche a me farebbe piacere sapere attaccare il telefono, non è il mio lavoro. Se mi venite a fare l'impianto, bene, se no non me ne frega un cazzo di niente, no, capito? Devo lavorare, faccio con la Dottore, un cazzo! Parenzo! Sono Parenzo! Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia! Pagato dal Mossad! Pagato dal Mossad! Parenzo! È che una bella bestia! Pagato dal Mossad! Pagato dal Mossad! Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Migliore della giornata è quando tutti se ne vanno dall'open space e al lavoro posso mettere la zanzara a tutto volume e Bagatta ci cova. Parenzo, sei veramente un gran coglione. Ma se uno entra dentro casa mia, no? Cosa gli devo fare? Gli devo offrire il caffè? O gli devo sparare? Non lo so, non ho capito. Sei proprio un rincoglionito di merda di sinistra, cazzo. Federico, provincia di Roma, vai, vai. Ciao, vai, Federico. Buonasera. Dimmi. Cruciani, senti. Sì, dimmi. Ma a me... tutte le tue provocazioni, quando c'è quell'intelligenza, vanno benissimo. Ma che ti sei rincoglionito? Ma su che cosa? Ma non ho capito. La gente muore sul mare e tu, il migrante va giù il migrante, va ma giù. Ma quella è una canzoncina, una canzoncina mutuata, ma no, ma mi è stata suggerita da qualche ascoltatore, l'ho ripetuta mica perché spero o mi auguro che un migrante, capito, ma che vuol dire, ma si gioca, ma ragazzi, ma si gioca anche su queste cose, inutile che ci facciamo troppi, no, ma che c'hai, si stanno andando giù gli ascolti per dirsi stronzate. No, ma senti, non mi rompere i coglioni, amico mio. Allora, se ti ha fatto schifo quella canzoncina, ti ha fatto schifo quella canzoncina, punto e basta, ascolta, dai. Quelli della Lidl, quelli della Lidl. Io sono pronto. Sì, sì, dai, certo, dai. Certo. Sono 25 anni che sono una grande azienda. A me non me ne frega un cazzo se quella è ladra, non è ladra, è rom, è svedese, un cazzo. Tu sei la maglietta della Lidl, è la tua azienda. E allora? Non c'è dubbio. E allora? Tu devi stare attento a quello che fai. Bravo, ma che siete bravo. Diventati soldatini? Immagine di chi te la bagna. Ma che... Ma che, ma che sei diventato un soldatino? Sei diventato un soldatino dell'azienda? Sei diventato un soldatino? Sei diventato un fedelissimo? No, ma dice una cosa vera, ovvia, no? Ma che vuol dire? Ma infatti quelli stavano lavorando. A un certo punto stavano giocando in un orario di lavoro, giocando, per usare il termine. Senti, amico mio, hanno concordato. Un attimo? Sì, sì, parla, sono qui, Parenzo. Caro, meno male che hai chiamato. Togli guarda. Viva voce, però, togli viva voce. Dai, intanto, intanto grazie, perché voi siete in tanti, siete in tanti, siete in tanti, siete in tanti. Fatemi sentire di più. Vengo io, no, Parenzo? Maggioranza silenziosa, ovvio, maggioranza silenziosa, siamo tutti con te, siamo qui e siete tanti. Capito, chiamate poco perché lavorate, siete intellettuali, studiate. Cruciani è bravo, non è bravo, Cruciani è bravissimo, cazzo. Però che cazzo gli sta succedendo? No, ma guarda, amico, fratello mio, non lo mi sta so, succedendo lo so, nulla, lo so. Non ho fatto nulla, è impazzito. Un periodo molto difficile, ma anche da un punto di vista. Ha fatto un'operazione che, di cui non posso parlare, ma con ad esempio, allo scrotto, quindi poverino. Adesso ha subito, ci cioè sono mesi, diciamola tutta, dai, ormai. No, no, ma lo so. No, ma però sì, scusa, no, ti togli questo viva voce. Questo sta in viva voce da 10 minuti. Ti togli il viva voce. Ha subito un intervento, al pene. E purtroppo questa cosa qui ha avuto anche un riverbero sullo suo stato ormonale. Cioè, sono, diciamola tutta, dai, sono veramente dei mesi che poverino ha questo. Guarda so, continuamente il dito e non guarda la luna. Lo ma so. Ma che cazzo so. Me ne frega se devi lo sparare dentro so, casa, non devi sparare dentro casa. Poi c'hanno sempre figlie loro, mai figlio, c'hanno le figlie che stanno a dormire. Ma saranno cazzi loro di quelli che si vogliono difendere? Ma non è questo, a casa sua poi vai ammazzalo, non me ne è un cazzo. Ma è possibile che nessuno dice la cosa più impegnativa? Che io non devo fare lo sceriffo, porco Giuda, pago il 50% delle mie tasse. Ma che c'entra? Lo Stato che mi deve almeno far vedere che ha messo sul allora, sistema per difendermi. Precisiamo tre cose. Prima cosa, quella canzoncina basta un poco di zucchero, il migrante lo NG dice allora, peraltro la versione. È chiaramente uno scherzo, un gioco per in qualche modo dare forza, per dare forza al signor Zuccaro. Ovviamente nessuno si augura. Ma incazzare a noi, che fa chiamare a noi. Ma quello sono cazzo. Ma che vuoi? Se tu vuoi chiamare, chiami, mica ti obbligo a chiamare. Per cui di che stai parlando? Seconda cosa che hai detto, poi la seconda cosa che hai detto, qual è che mi sono scordato? Qual è? Ma la Lidl, l'amico mio, la Rom ladra è libera, la Rom ladra, anzi non ladra solo quella volta lì, la Rom ladra più volte ladra, sì vabbè, perché quelli hanno fatto una cosa contro l'azienda, a me non me ne frega un cazzo dell'azienda, capito, a me della Lidl non me ne frega niente della Lidl. Tu sei un potenziale assassino di aziende, sei tu infatti con questo atteggiamento sbagliato. Ma vabbè, ma cosa vuol dire? Scusa, no, è cosa... bravo, è un buon senso, mi pare. E la terza cosa è... Se non lo capisci, non te lo posso spiegare. Vabbè, allora sei tu quello razionale. Io sono dalla parte di quei due licenziati, mentre la Roma ladra è libera, chiaro. Ma l'ha già detto mille volte. Federico, l'altra perché cosa qual era? Dire, l'altra cosa qual era? Non ho capito. L'altra cosa che hai detto qual era? Dentro casa, se tu vuoi ammazzare il Rom che ti viene dentro casa, ammazzalo, che cazzo me ne frega. Però non è quello che io devo pretendere. Ma non lo Stato non può presidiare ogni casa, non dire stronzate. Hai detto tre puttanate, dai. Ma certo, presidiare ogni casa non si può. Hai detto tre puttanate, dai. Che fanno adesso. Hai detto tre puttanate, su, veloce. Michele, provincia di Bergamo, ciao, Michele. Buonasera. Allora, la signora Mussolini, aspetta un attimo, la signora Mussolini scrive su Facebook. Se è veramente il suo profilo, quello io non... Sì, può darsi anche che non sia il suo profilo. Sì, però... questo pomeriggio un funzionario del Comune di Roma ha contattato telefonicamente un membro della mia famiglia, comunicando che è in funzione un servizio del Comune per far cambiare rapidamente e facilmente il cognome se ritenuto imbarazzante o che crei disagio i Massolini o Messolini. La Raggi, o Reggi o Ruggi, riceverà a breve notizie dai nostri legali. Posso dire subito che in realtà io noi... Temo. No, assolutamente non devi temere. Sul cognome Mussolini abbiamo maramaldeggiato più volte per far cambiare cognome. Non abbiamo mai chiamato, ma semplicemente perché non erano sull'elenco telefonico i membri della famiglia Mussolini. Può darsi pure che ci sia capitato qualcuno per scherzo, ma non certamente in questi giorni, in cui non ci ho assolutamente pensato. Abbiamo ancora dei Mussolini da farvi sentire, persone che devono cambiare il numero, ma sono cose che ci mandano questi funzionari del comune e poi gentilmente ci offrono degli audio. Comunque, ragazzi, noi non c'entriamo un cazzo, purtroppo. Claudio, provincia di Firenze, dai. No, chi c'era? Michele, provincia di Bergamo, sì, vai. Michele. Sì, buonasera, io mi riferisco all'affermazione fatta all'inizio, quasi all'inizio della trasmissione da Parenzo, rispetto al capo della procura di Catania, Zuccaro. Quando Parenzo ha detto che lo vorrebbe sentire parlare con le sentenze. Solo con le sentenze, con il rinvio a giudizio, quando ha elementi. Questo magistrato sta girando tutte le commissioni, le televisioni, le interviste. Voglio farla riflettere. Non sono in contrapposizione con lei. Vabbè, allora? Allora, io dico, ma stiamo parlando di un autorevole membro della magistratura, è capo di una delle procure più importanti d'Italia. Forse avrà dei motivi per fare questo, cioè lui sa che con quello che ha non può andare in giudizio e condannare nessuno, quindi sta probabilmente tentando di sollevare una opinione pubblica su un tema che altrimenti lo vedrebbe sconfitto con i delinquenti che continuano a fare quello che vuole. Vabbè, Michele, ciao. Claudio, Firenze, provincia di Firenze, vai Claudio. Sì, ho da raccontare una breve storia al dottor Parenzo, veloce. Sì, vai. Faccio il camionista e sono andato a un supermercato Coop Firenze e per entrare dove fa marcia indietro, quando vedo dallo specchio di destra una bambina di 5 anni più o meno, ferma sui marciapiedi, occupava lo spazio. Sì. Quindi niente, mi si ghiaccia il sangue, scendo la bambina da sola, con chi sei, la mamma e il babbo. Passa una signora, insieme l'accompagniamo dentro il supermercato Coop, andiamo dentro, il direttore, la bambina da sola, la faccio breve, cerchiamo dov'è lo scarico, dove scarichiamo le merci, e la madre Rom era dentro il cassonetto della frutta e della verdura. Portano i figli a rubare, a rovistare dentro i cassonetti. La bambina di 5 anni era sulla strada, mi spiego che voglio dire, cioè io con il mio tir la potevo schiacciare tranquillamente se non la vedevo, ecco. La madre era dentro il cassonetto a prendere la roba. Ma questo è un comportamento chiaramente criminale, che bisogna dire? Claudio, ma il punto è che se io lascio mia figlia per un attimo abbandonata sul ciglio della strada, dopo due secondi chiamano la polizia, eccetera. Invece, ma no, questo non è questo. Succedono tante secondi. Succedono talmente tante tragedie, purtroppo, di questo tipo, di bambini che vengono abbandonati in macchina, come sai. I genitori che vanno a fare la discorso. Basta scherzare, mi avete stufato. Stai paragonando i casi di genitori italiani, italianissimi. Andate a vedere le cronache. È una puttanata. Stai dicendo una puttanata inaudita. Stai paragonando i casi di persone, di bambini abbandonati per dimenticanze gravissime di genitori che magari sono morti, i bambini con genitori accusati, al fatto che ci sono bambini rom sfruttati dai genitori o abbandonati o portati a rubare dai genitori, stai confondendo due cose completamente diverse. L'episodio della madre che ero vista del cassonetto dell'immondizia con il figlio e il bambino abbandonato a margine della strada dove passava il camionista in questione, che poteva investirla. Vi dico, andate a vedere nelle pagine dei giornali locali, purtroppo la storia è piena di bambini lasciati in macchina con i finestrini chiusi mentre i genitori vanno a fare la spesa. È una puttanata inaudita, dai. Una puttanata inaudita. Cruciani, mi senti? Sì, Enrico, dimmi. No, è Claudio, dimmi. No, no, volevo dire a proposito dei parcheggi camionisti, se mi chiami in privato ho delle dritte. No, no, ma a me io non devo andare da nessuna parte. Privato, no, ma che privato? Prima, dimmelo qui, che privato. Prima, prima hai chiesto a mio collega, dai. No, ma dimmi che succede nelle piazzole. Ora io sono vecchio, ma l'autostrada e la notte sono una roba impressionante. Beh, raccontami qualcosa, se vecchio. Vabbè, è un mondo che ti devo raccontare, dai. Però come dire, è il mondo più trasgressivo che c'è in assoluto. Ma sì, questo non ho dubbi, ma le piazzole dei gay esistono ancora, le piazzole? Sì, ma non solo le gay, dei mariti, le mogli, di tutto. Questo è buono. Raccontami l'episodio al volo. Ma non ho episodi, però è fantastico. Qual è uno delle piazzole, come dire, più frequentate? Guardi, ti do una dritta, io non faccio più da anni, però era il casello di Padova Ovest, era fantastico per i mariti e portava le mogli, ecco. Casello di Padova Ovest. Bravo, Crociani, fermi tutti. Era quanto tempo fa, scusami? No, io non lo so, ora sono 7-8 anni, non lo faccio più. Beh, però adesso indagheremo, Parenzo. Perché non vai ogni tanto al casello di Padova Ovest? Ma io non vado in nessun casello di Padova Ovest, assolutamente. Sono stato utile, Crociani, spero di sì. Perché vedremo, Claudio. Grazie, Beppe, ciao. Siamo al top, ragazzi, siamo al top. La Zanzara. Come sapete, esistono purtroppo, secondo me, i vitalizi. Cioè esistono le pensioni dei parlamentari che sono superiori alle pensioni di qualsiasi italiano. Cioè loro dicono: abbiamo versato i contributi, abbiamo dato dei soldi e dunque è giusto che abbiamo il vitalizio. Niente di più falso. Se vi raccontano una cosa del genere dovete dire: andate a fare in culo. Perché non è così. Non è assolutamente così. Hanno versato quanto hanno deciso loro sulla base dello stipendio che hanno deciso loro e le retribuzioni, anche se qualcosa è cambiato o cambierà nel futuro, forse, le retribuzioni sono comunque più alte rispetto a qualsiasi altro italiano, a qualsiasi altro lavoratore italiano. Non paghi di questo, alcuni deputati stanno facendo ricorso. Cioè dire, la Camera, anche se la cosa ormai ancora non è sicura al 100%, anzi non è successo niente per adesso, alla Camera hanno deciso di fare una piccola decurtazione per depositare questi soldi in un fondo. 10%, sì. Una cosa di questo tipo. Alcuni hanno fatto ricorso contro questa roba qua. Hanno fatto ricorso. Abbiamo scoperto chi è il principale oppositore, colui che per primo, attraverso un avvocato noto che si chiama Paniz, se non sbaglio, ha fatto ricorso. Famoso. Trattasi di un signore che si chiama Peppino Gargani. Ex Forza Italia, ex DC, Partito Popolare Italiano, Forza Italia, poi UDC, prende un assegno mensile, credo intorno agli 8.000 euro, giù di lì. Peppino Gargani fa ricorso. Non pago del vitalizio, fa ricorso. Dottor Gargani? Sì. Ecco, sì, buonasera, qui Radio 24. Sì. Come sta? Non c'è male, non c'è male. Ce la caviamo? Sempre in battaglia, no? Sempre in battaglia. Sempre. Senta, ma allora questo ricorso, perché ha presentato questo ricorso per il vitalizio? Ecco, perché l'ho presentato, mica solo io. No, lo so che lei non l'ha presentato da solo, ma perché l'ha presentato sto ricorso? Perché è contro, è illegale. Cosa è illegale? Costituzionale. Illegale la delibera del consiglio dell'ufficio di presidente. Cioè, non ho capito, lei non vuole la decurtazione? È illegale, che c'è scritto che non la voglio? Aspetti, prima di decidere, non è che decide lei che è illegale. Esatto. Eh beh, io faccio il ricorso perché ritengo che è illegale. Sì, ho capito, ma una piccola decurtazione non è che fa male, no? Cioè, rispetto al vitalizio. Guardi, no, il problema credo che, insomma, se lei vuole sapere la logica... Mi spieghi la logica, sono allora, tutto orecchi. Siccome una legge che prevedeva la solidarietà è scaduta il 31 dicembre 2016, il contributo di solidarietà non si capisce a chi deve andare, perché manca la legge. Sì, allora d'accordo. è una cosa del tutto irrituale, illegale, prendere i soldi e metterli su un conto appartato alla Camera senza sapere la solidarietà a chi va. Scusi, ma quando lei... saprò la solidarietà a chi va, allora deciderò se accettare o meno. In questa situazione, quando uno chiede un piccolo contributo di solidarietà a una cosa... È illegale, un piccolo contributo legale, non illegale. Sì, un ho capito, ma... Un contributo legale, non illegale. Ma che ha paura? Che questi soldi dove vanno, scusi? No, non ho nessuna paura, non so, non possono andare fare la solidarietà, ma che gliene... perché manca la legge. Va bene, d'accordo, la metteranno la legge, non è quello il punto. Come la metteranno? Ma... se lo metto prima. Scusi, ma il vitalizio dei parlamentari, secondo lei, è una devono cosa... fare una legge. D'accordo, no, il vitalizio dei parlamentari, secondo quando lei... avranno fatto una legge, allora ma è lì. Corretto il vitalizio dei parlamentari oppure una... è esagerato rispetto a quello ma che... per l'amor di Dio, è una cosa correttissima ed è una garanzia di autonomia, di indipendenza, come sì, in ma è un po' Europa esagerato, non sono Parenzo, professore, sono Parenzo, buonasera. Buonasera, come professore. In tutta Europa c'è. Sì, professore, buonasera, sono Parenzo. Volevo dire, è un po' esagerato però, no? Che cosa? Il vitalizio. L'ammontare del vitalizio l'ammontare, rispetto... la dimensione rispetto al lavoratore vabbè. Comune. D'accordo, purtroppo sto in una riunione. No, sempre una riunione. Gargani, scusi una... No, professor scusi Gargani, un scusi un attimo. Sto in una riunione. Rispetto purtroppo. A quanto contribuiscono i singoli cittadini per la loro pensione, non è esagerato il vitalizio? È illegale, non è assolutamente esagerato. Sono esagerati gli stipendi che pigliano quelli che stanno alla RAI, per l'amor di Dio. Ma che c'entra la RAI? Cosa c'entra la RAI? C'entra niente. Le cose dovrebbero essere legali. No, ma io sto parlando adesso del vitalizio, non della, del contributo vabbè, che voi non volete. D'accordo. Ma perché il vitalizio, secondo lei, va bene così? I contributi che voi avete dato, che avete deciso da soli, sono nettamente inferiori rispetto a quello che assolutamente prendete. Assolutamente no. Sì, io come se no? Se dovessi rinunciare mi devono dare dei soldi a me di rimborso, assolutamente. Scusi, lei prende 6.000? Lei prende qua? Assolutamente no, comunque devo salutarlo. No, Gargani, ma scusi, ma lei prende i soldi minuti. Prende i soldi pubblici, deve rispondere. Mi chiami fra 10 minuti. No, 6.629, giusto? No, no, io ne piglio 5.700, qualcosa di sì, più. Ma netti, 5.700 netti? Sì. Ho capito, 6.600 sì. Lordi, quello comunque dicevo. Sto in una riunione, se mi può chiamare fra 10 minuti sto fra 10 minuti lei poi non risponde, dottor no, Gargani. Come non risponde? La cosa fondamentale però da dire è questa: secondo lei il vitalizio è sacrosanto, giusto? Ma non solo è sacrosanto, ma è giusto e garantisce come in tutta Europa, in tutti i parlamenti del mondo, ma è un furto nei confronti dei cittadini rispetto a quello che gli altri cittadini hanno versato. Vabbè, ma insomma, siccome siamo diametralmente opposti, lei parla di vabbè, furti, ma io manco, io dico, parlo se fosse di un furto io lo dormirei la notte. Ma no, un furto non, scusi, rispetto a quello che lei ha versato, se un cittadino versa la io stessa... devo avere il resto, se loro mi tolgono devo avere il resto, se mi togliessero la vitalizio io dovrei avere il rimborso. Ma lei che farebbe senza vitalizio? A conti fatti io dovrei avere il rimborso, lei prenda atto di quello che io sto dicendo. Ma lei che farebbe senza vitalizio? Morirebbe di fame? Certamente, perché sennò devo fare la mia professione. Ho capito, ma va bene, non saluto, ho capito. Morirebbe... In che senso morirebbe di fame? Scusi, la, non, per l'amor di Dio, che morto. Non saprebbe come campare. La saluto, lei no, è molto gentile. La ringrazio. Scusi, Gargani, ma non qual saluti. È cioè, perché deve salutare? Scusi, non deve salutare. Risponda. È perché c'è una riunione, c'ho gente davanti, c'è da fare delle scusi, cose. Gargani, lei... Per 10 minuti io rispondo. Io voglio dire, con questi soldi, lei che ci fa con questi 6.000 euro, 5.000 euro? Che ci fa questo? No, ma io la chiedo seriamente, che ci fa ogni mese? Ci campo, e poi, faccio le mie cose. Sì, ci campa, non c'è dubbio, ma se, vuol dire, ci senza? Senza? Ci farebbe la fame. Allora, mi scusi, c'è una cosa urgentissima, mi chiami Fredi? Certo, è chiaro. Pure al 10%, non so quanto sia la decurtazione, si attaccano a tutto. Ragazzi, il vitalizio, diciamocela, Parenzo, non bisogna essere troppo. È un furto legalizzato. Un momento. Mi risulta che questa trasmissione, da un po' di tempo a questa parte, sia diventata ricettacolo delle cosiddette idee del signor Gilletti. Che fu il primo che dalle sevizie pubbliche, alias servizio pubblico, ha cominciato questa vergognosa campagna contro noi poveri vitaliziati. Peraltro, nel caso del sottoscritto, quello era un democristiano, il professor Gargani, mi pare. Nel caso del sottoscritto, io ho sempre combattuto le battaglie al fianco degli operai, senza mai essere uno di loro, naturalmente. Però, dal fianco degli operai, dirigendo grandi azioni di sommossa contro la macelleria sociale realizzata in questo paese dalla vostra Confindustria e dalle imprese. Orbene, questo cosiddetto Gilletti, questo signore allampanato, alto, inutilmente alto peraltro, no? Inutilmente altro, sempre elegante, sempre con questo sorriso stampato, una cosa anche... Ma che cazzo ridi, bisognerebbe dirgli, caro Gilletti, non si capisce perché non c'è niente da ridere. Non c'è niente da ridere, sbeffeggiare gente, lavoratori onesti come me, che hanno guadagnato per anni 12.000 euro al mese incitando la lotta continua. Mi pare un crimine quello di Gilletti, non il mio, che dagli scranni del Parlamento dal 1960 68-69 se non ricordo male abbiamo dato nell'ordine, preso a sassate quei baroni che non volevano darci il sei politico, presi a sassate. E fammi parlare, stronzo! Adesso parliamo seriamente. Siete due delinquenti, pagliacci e imbecilli. Andate a fare il c***o. La zanzara. Dottore è andata trans. Non c'è niente di male, è eterosessuale. Dottore è andata trans. Dottore non è cattivo, è solo un po' passivo. Ma solo con i trans. Papà sta andando trans. Ho già l'appuntamento e tu mi stai trattenendo. Papà sta andando trans. Ti porto, lo prometto, quando ci avrai il pizzetto, così andrai a trans. Anche tu andrai a trans. Finalmente andrai a trans col papà. Naturalmente. Giuseppe, io con 850 euro ci pago 8 marchette, bei ragazzotti, belli muscolosi come piacciono a me, e con i 50 euro che avanzano ci faccio ancora sul piano la macchina per andarli a prendere e riportarli a casa, e dovrei spenderli per andare con un Giarzanese. Ma vabbè, per favore, dai. Ciao Cruciani, sono DPWC, so dove caghi ogni giorno. Beh, amico mio, che vuoi fare? Mi vuoi denunciare? Non ho capito, è una roba incredibile. Allora ragazzi, animalisti. No, però scusami, rimaniamo ancora 30 secondi sulla vicenda della Boschi, perché guarda ancora, che basta, interessa. Abbiamo detto tutto, allora, dai. No, la cosa curiosa è che lei annuncia, dice solo fango, annuncia querela, vabbè, contro il direttore è normale, De no? E questo ci sta. Ma la cosa curiosa invece è la reazione del Partito Democratico. Ma chi se ne frega? Perché, ma sono tutte cose politiche, non frega un cazzo a nessuno. No, dai. In realtà questa cosa è molto più semplice. Il PD che dice attacco vergognoso e strumentale, campagna e di che stampa. Che devono dire? Quello è il mio... No, in realtà un conto è la diretta è interessata. È sodale di Renzi, no? No, ho capito, cioè... ma stiamo al merito. Vabbè, questa è già un'altra. Ma nel merito, un conto è lei che dice mi devo difendere perché è stato attaccato il mio onore. Ma il Partito Democratico dovrebbe chiedere chiarimenti anche direttamente a lei, scusa. Ah, sì, non è che d'accordo. Dice, no, è una questione da poco, però attacco vergognoso e strumentale, ma lei si deve difendere perché lei è stata, come dire, c'è una notizia che la riguarderebbe e quindi si deve difendere, ma il PD deve chiedere chiarezza a lei. Ma il PD è comandato da chi? Da Renzi? No, siamo d'accordo, che ma è diciamo il principale sponsor, per non dire l'azionista di maggioranza di della Boschi. Siamo di che parliamo? D'accordo. Dai, è chiaro che il PD, poi bisogna vedere il PD che vuol dire, chi è che si è espresso su io questo. Io qua leggo dichiarazioni e di chi? Del Partito Democratico, ma di chi? Di esponenti di chi? Ovviamente e anziani. Allora, è chiaro, gli esponenti anziani non è che dicono chiarisca la sua posizione, perché se tu, se tu dici questo ti metti contro Renzi, no? No, va bene, ma ho purtroppo capito, ma questo non è un altro punto interessante. Ma non funziona in così vicenda, in quel partito, non funziona così in nessun partito. Quando Berlusconi veniva accusato da qualcuno, c'è qualcuno che diceva in Forza Italia, ma no, deve chiarire qualcosa. Ma infatti noi lo critichiamo, io criticavo Forza Italia anche all'epoca, dicevo un po' di sussulto, un po' di orgoglio, smarcatevi, dite qualcosa, chiedete chiarimenti. Io lo dicevo anche all'epoca, mica solo oggi, infatti. Davide dalla provincia di Padova, dai. Davide. Pronto? Dimmi. Aspetta che tolgo il video. Ecco, meglio, sì, meglio. Vai. Tolga tutto direttamente. Vai. Ciao, volevo parlare un attimo con Parenzo in merito a quell'ascoltatore che ha espresso, diciamo, la sua paura, la sua, diciamo, il cambio di vita, di qualità della vita dopo che ha subito questo furto in casa. Allora? Allora, Parenzo, secondo me, anche se non l'ha mai subito, dovrebbe comunque portare rispetto per chi si alza la mattina presto, va a lavorare, magari mette da parte qualcosa e poi rischia di vedersi portato via tutto e tutto quello che può accadere durante una rapina. Allora, lui l'ha denigrato, certo, complimenti. Cosa dire sta che dicendo? È un piccolo pezzo di merda. Ma cosa? Te lo dico anche in dialetto. Buonasera, chi è un pezzo di merda? Buonasera e benvenuto. Parenzo, buonasera, un pezzo di merda. Perché è un pezzo di merda? Perché ha denigrato, l'ha trattato proprio a pesci in faccia, come con la sua sufficienza, sempre alla sua sacenza, una persona che diceva: guardate che è un'esperienza che cambia la vita, cambia la qualità della vita, ed è così, ed è così. E lui dovrebbe portare rispetto. Ma cosa sta dicendo? Io ho espresso un ma che, di che cosa parla? Ma dove ho mancato di rispetto? Ma che dice? Ma che dove cosa hai delira? Ho mancato di rispetto. Ma non ho mancato. Ho espresso una mia opinione, non me ne frega nulla. Ma ha mancato di rispetto a chi ha subito lei un furto mi in sta, casa. Lei invece mi sta. Io non ho mancato di rispetto a nessuno. Io ho detto semplicemente che anche chi riceve un furto in casa e quindi subisce sulla propria pelle, poverino, e mi dispiace ovviamente sul piano umano, un'aggressione di questo tipo, poi chi viene a propagandare l'uso delle armi, io lo contrasterò sempre. Che ti devo dire? Posso dirlo ancora in un paese libero? Un coglione, e mi devi dire, buonasera, piacere Parenzo. Come si chiama lei? Piacere Parenzo. No, lei si chiama questo coglione. Il nome dire, di battesimo qual è il suo? Cosa, scusi? Come si chiama lei? Nobis. Nobis, no, coglione? No, non ho capito. Come si chiama lei? Ha detto coglione. Diglielo tu, Beppe, perché questo non capisce un cazzo. Come si chiama? Io lo dici tu. Io come sono... si chiama lui? Non l'ho capito. Ho sentito solo il cognome. Davide, come si chiama Davide, di nome? Come te mi chiamo? Come te mi Davide, chiamo? No. Lei si chiama Davide Coglione. Complimenti. No, complimenti. Non lo so, ha detto lei il coglione. Non ho capito, mi dispiace, no, può cambiare. No, no. Sa che c'è un ufficio gestito dal signor Mercù che fa cambiare, può darvi la possibilità di farvi cambiare il cognome. Questo è Mercù, lo fa. Magari tu se ti metti testa di cazzo di fianco, c'è più piacere Parenzo. Lei ma, come ma si culo, chiama? Ciao, piacere ciao. Parenzo. Paolo provincia di Padova. Dai, Paolo piacere Parenzo. Paolo provincia di Padova. Ma su, mica sono andato l'altro giorno, dai. Pronto? Paolo, dimmi. Allora, ciao. Allora, io volevo dire soltanto una cosa riguardo la legittima difesa e tutto quello che sta attorno, che nel mio parere la legge che c'è adesso va benissimo, e uno Stato in generale non può assolutamente autorizzare o legalizzare l'uccisione di una persona, perché bisogna ridimensionare cosa significa uccidere. Allora, forza, persona. Dai, amico mio, non mi fa la pippa, non mi attacca la pippa alle 27, dai, successo, forza. Una storia che è successa. Praticamente una volta dovevano trovare una campagna per una, dovevo raggiungere la campagna di un nostro amico per festeggiare Capodanno, Natale, quello dai, che era. Sì, allora? Sbagliamo campagna, sì. Ci avvicinammo quindi a questo casolare. E che vuoi fare? Se ti sei sbagliato, che tu sei, qualcuno ti ha puntato un fucile addosso? Certo. Vabbè, ti hanno puntato, ti hanno sparato o non ti hanno sparato? Allora perché rompi i coglioni? Non ho capito. Perché poteva succedere. E poteva succedere, tante cose possono succedere. Se tu vai in un potere, in un territorio, in una zona che non è la tua, qualcuno ti scambia per l'altro e ti spara. Non c'è niente di più ed normale. Ma ed non lo so se è cosa. Giusto o no. Quello è legittimato a farlo e tu devi andare fuori non dai coglioni. Non deve essere legittimato. Hai superato una zona dove non potevi entrare? Non te ne sei accorto? Colpo che poi che cazzo facevi andando in un prato? Dov'è che sei andato? Non in un campo? In una campagna. Ma che stavi a fare in campagna? Ma che te ne frega? Facciamo ma le feste là. Le feste in campagna? Ma non è che fa le feste in campagna, ma aspetta prima, informati su dove vai. Non è che uno va a fare la festa in campagna a cazzo di cane, ti informi così non rompi il cazzo ai proprietari. E quindi quello era la tua. Ma non mi interessa se quello vuole. Ma innanzitutto non ha sparato, ti ha puntato il fucile. Ha sparato in aria, giustamente tu sei andato fuori dal cazzo. Il risultato è che tu sei andato fuori dai coglioni? Sì, ma sì, benissimo. Allora ti ha mandato fuori dai coglioni. Ti ha sparato in aria. Sì, scusa, mio amico mio. Il risultato concreto qual è stato? È stato che questo signore, che si è visto, come dire, si è visto invadere il proprio campo, il proprio territorio, il proprio potere da un signore che voleva fare una festa, cioè da un nulla facente che voleva fare una festa in campagna. Questo signore sparando in aria. Io stavo cercando la campagna di un mio amico. Vabbè, avevo sbagliato. Eri lì a gironzolare, diciamo, come dire, eri lì sostanzialmente nulla facente. Sei andato lì da questo tuo amico, hai sbagliato, questo signore ha sparato in aria, dico vai fuori dai coglioni. Risultato ottenuto, cioè sei andato fuori dai coglioni. Evidentemente se questo qua ti diceva vai via, tu non facevi niente, invece spari in aria. Certo che me ne sarei andato fuori via, dal cazzo. Perché, anzi, mi avrebbe indicato la campagna giusta dove andare. Beh, ma la gente mica è fatta tutta come dici tu, a tua immagine e somiglianza. Magari ci sono delle persone un po' più rudi, un po' più, no, un po' più manesche, un po' più dirette. Questo qua ha sparato in aria. Ha sparato in aria, che sarà mai? No. Che sarà ha sparato mai, in aria, per te, ha sparato in aria e tu sei andato fuori dalle balle. Cioè, tu non ti eri sbagliato. Spero che Parenzo non condivida questa. Ma assolutamente. Tutti la paura del signore che spara in aria. Io adesso ti informo di una cosa. Certamente. Scusami, la domanda è questa, Paolo. La tua fidanzata. Aspetta, Paolo, la tua fidanzata ti ha mai messo un dito nel culo? Eccolo qua. No, per fortuna no. Amico mio, sei fuori strada. Io avevo già capito che la tua fidanzata non ti ha mai messo un dito nel culo. L'avevo già capito subito, dalla voce. Maggioranza silenziosa. No, ma interprete della maggioranza silenziosa, classico esponente della maggioranza silenziosa, che di fronte allo sparo di un tizio dice: oddio, mi ha sparato in aria il proprietario di un territorio, di un potere, di un campo, eccetera. Pazzesco, non lo doveva no? fare, pericolo, eccetera. Poi alla, alla successiva domanda, la tua signora, la tua fidanzata, la tua compagna, ti ha mai messo un dito nel culo? La risposta è no, figuriamoci, meno male. Ignorante, io davvero non ho più parole per piangerti, perché non ho parole per piangerti, perché se vado a leggere quello che scrive il Messaggero di oggi, teme i ladri, dorme con la pistola e si spara un colpo per sbaglio. Vabbè. Allora mia vabbè, vabbè, la disavventura è capitata l'altra notte a un pensionato di 65 anni colpa di Belforte sua, del Chienti, che ha premuto accidentalmente il grilletto dell'arma con la quale si era coricato da poco tempo. Ora io auguro alle signore Amlores d'Arca, come si chiama? Lores, hai donato da Varese a tutti questo branco di miserabili che dice di essere armato, di dormire con la pistola la notte. Io ve lo auguro. Anzi, spararsi nei coglioni. Bravo, bravo. Dormite con la pistola, perché non lo fate? Tenetela sotto il cuscino, ma tenetela carica però, perché se è scarica non ci sono effetti. Carica, dovete caricarla, caricarla la notte, dovete caricarla e controllare che ci siano almeno 6 pallottole dentro, almeno 6 pallottole, non una, 6. Ma magari non sbagliano, scusa, magari non sbagliano. Comunque, caro Paolo, scusami un attimo. Allora, la vera notizia che ci hai dato, adesso se n'è andato Paolo, giustamente scandalizzato. La notizia che ci ha dato è questa: che nessuno gli ha mai messo un dito nel culo. Questa è la realtà dei fatti. Se uno non è stato come dire omaggiato da questa cosa qui, ma di cosa parliamo, amico mio? Non sei un vero uomo. Vero uomo, insomma, non sei un maschio, non sei uno che conosce il sesso, che conosce la vita, se non ti hanno messo un dito nel culo. Ma diciamo la verità, dai. È una cosa vergognosa quella, questa campagna che fai a favore di queste platiche. No, veramente è una cosa. Platiche, detto platiche. È perché ogni tanto sei inserito. Fermo lì. Ma pensavo che quello non lavora più, Signora del Santo, sa che cos'è lo squinting? Sì, è quel ballo dove muovi il sedere. Cos'è lo squirt? Quel ballo dove muovi il sedere. Cruciale, dimmi cos'è sprint. Quel ballo dove muovi il sedere. Perché? Ho sbagliato? Quello che ti muovi convulsamente. Convulsamente. Quel ballo dove muovi il sedere. Sì. La zanzara. Eccomi qui, oggi compio 44 anni, eccomi in macchina a destinazione Innsbruck Passion Club, perché ragazzi non ci sono cazzi. L'unica cosa che ho imparato in tutti questi anni è che la donna che paghi subito è quella che costa meno. E dopo una bella scopata mi farò portare un fantastico spritz dalla Filippina di Parenzo. Ciao amici miei. Sono un europeista convinto. E vado a puttana in Germania. La zanzara. Torna Udine, perdonerò la tua ingenuità. Torna Udine, la tua vita è fatta di semplicità. Cazzo ragazzi, Vasco Rossi, Ruggero dei Timidi e Vasco Rossi travestito da Gabibbo. Canzone straordinaria, siamo al Vasco Top. Torna Udine, perdonerò la tua ingenuità. Torna Udine, la tua vita è fatta di semplicità. Torna Udine, un impiego lo si trova se lo vuoi. Torna Udine, il bar è sempre qui che aspetta noi. Allora, esattamente De Bortoli sulla Boschi scrive: l'allora ministra delle riforme nel 2015, perché la cosa va completata, l'allora ministro delle riforme nel 2015 non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato di Unicredit. Maria Elena Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare la possibilità di acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministrazione delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali, poi decise di lasciar perdere. Così questa notte. Da qui l'incazzatura della Boschi, naturalmente. Che da Udine mi porterà Antonio, provincia di Varese, vai. Pronto? Sì, Antonio, dimmi. Dimmi, dimmi. Volevo parlare appunto della Boschi. Sì, però sei in viva voce, scusa, sei in viva voce. No, no, non sono in viva voce. Auricolare, no, vai, vai. No, non ho attaccato, niente. Volevo dire, ho sentito da parte vostra che dicevate se effettivamente quello che dice per... Non si sente, no, non si sente, dai, forza. Che cazzo devo fare? Non lo so che cazzo devi fare. Io non dico niente. Se vai, dimmi, dimmi, parlo, dimmi, però, vai, dimmi, parla. Avete detto che se Ferruccio De Bortoli fosse vero quello che ha detto, la... non si sente, ciao Anton, mi dispiace, ciao, ciao. Allora, a proposito di vitalizi, caro David, c'è un altro caso incredibile, che è questo di questo Giuseppe Gambale. Giuseppe Gambale. Giuseppe Gambale. Giuseppe Gambale è uno sconosciuto alla maggior parte di voi, però questo signore prende circa 8.455 euro lordi al mese a 42 anni. A 42 anni. È entrato praticamente ragazzino alla Camera nel 92, è andato in pensione nel 2006. Nel 2006, sembro Capanna, per diventare subito assessore al comune di Napoli, dove ha preso un altro stipendio. Siccome non c'erano le regole che ci sono adesso, comunque a 42 anni, dopo aver versato certo dei soldi, in quattro legislature credo che abbia versato in tutto 222.000 euro, comunque prende 8.455 euro. Tu stai curando il prossimo libro di Mario Giordano, vero? No, no, signor Giuseppe Gambale. Senti, io voglio capire se si vergogna a prendere questi soldi o no, perché per carità ci sono dei versamenti, però a 42 anni questo signore qui, questo Gambale, a 42 anni prende 8.455 euro lordi per avere fatto, sì, certo, quattro legislature, ma i cittadini normali, anche se versassero quei soldi, non prendono la stessa cifra, ve li siete decisi voi, sia gli stipendi sia le quote da mettere lì, è inutile che rispondete sempre così. Sì? Sì, dottor Gambale? Sì? Sì, buonasera, qui Radio 24, lo disturbo? Sì, sto lavorando. Sì, una 5 minuti, Gambale. No, abbia pazienza, sto facendo ambulatorio. E chi è, scusi? Cruciani, Radio 24, salve. Guardi, io sto lavorando, sto facendo ambulatorio. No, Gambale, 5 minuti, ho bisogno. E siccome è ritornato a questa discussione... Perché cosa? No. Mi ripeto. Sì, dottor Gambale, siccome è tornata questa discussione sui vitalizi... Guardi, mi dispiace, ma non sono proprio interessato a rilasciare... In che senso, scusi? Però. È importante, signor dottor Gambale. È una Gambale, cosa scusi. Importante, dottore. Buonasera, ripeto, sto lavorando in questo momento. Dottor Gambale, però lei prende soldi pubblici, non è che può... Credo faccia il cardiologo presso un ASL, richiamiamo. Pronto? Scusi, Gambale? Guardi. Sì, ma non è che può attaccare il telefono, ma così, Gambale, lei. Mi scusi, sono Parenzo, scusi il collega, sono Parenzo, no, mettiamoci d'accordo, sono Parenzo. Guardi, io non so lei chi è, le ho spiegato. Sono Parenzo, scusi il collega, ho detto intanto. Non la conosco. Ma io sono Parenzo, ho capito, dico mi scusi e scusi il collega. Anche il signor Parenzo, io non ho il piacere di conoscere. E Cruciani è l'altro collega autorevole. Allora, ma autorevole o non autorevole? Io sto visitando, sto facendo. No, lei ha ragione, ma è autorevole perché è del Sole 24 Ore e siamo del Sole 24 Ore. Anche del Sole 24 Ore, non è un problema. La Confindustria. Ho grande rispetto per il Sole 24 Ore. Oh, benissimo. In questo momento sto lavorando. Sì, però scusi, Gambale, lei ha detto che non vuole parlare del vitalizio, però non è che ha detto che sta lavorando. Esatto. Guardi, non mi faccia essere scortese, abbia pazienza. No, lei ha detto che non vuole parlare del vitalizio. Questo è il punto. Detto che sto visitando Gambale, sto lavorando. Per, lei deve rispondere su una cosa su cui prende dei soldi pubblici. Questo Gambale si sottrae, caro Parenzo, a rispondere al tribunale della Zanzara. Io dico che Capanna è molto incazzato per queste cose qua. Soprattutto prima l'avete tagliato, sentite. No, è molto incazzato per Giletti soprattutto, cioè vuole fare delle azioni contro Giletti. Azioni, pronto? Sì, che è successo? Mi dicono dalla mia tenuta dell'Umbria, nell'Umbria nella quale in questo momento mi trovo immerso a dei glicini meravigliosi, nonché a degli ulivi, che questo signor Giletti starebbe preparando per domenica un nuovo agguato. Molto bene, ma sappia, no, in segue dei deputati, sappia in questo, per, degli questo ex personaggio deputati. Pagato con i soldi del vitalizio mio anche, perché sì. tale è, ma, insomma, no, che noi domenica faremo una grande manifestazione di protesta davanti alla sede della Saxa Rubra, mi pare sia dove c'è quel cavallo lì orrendo, no, lo circonderemo, ma inutilmente, lo circonderemo, circonderemo il cavallo, circonderemo Giletti, circonderemo gli studi e lui sarà assediato all'interno dei suoi studi televisivi fino a quando non ci farà intervenire per spiegare le ragionevoli ragioni per le quali un ex deputato che ha lottato dalla parte degli operai, peraltro pur non essendo mai stato uno di loro, ha lottato dalla parte degli operai per i suoi diritti. Quindi saremo domenica, appello alla nazione, alle compagne e ai compagni all'ascolto sulle frequenze di Radio Capanna, non più Radio 24. Domenica, ore 14.30, l'arena di Giletti, assedio proletario. Grazie. Valerio, provincia di Verona. Vai Valerio, vai, vai. Valerio, ciao. Vai. Dimmi. Ciao, pronto? Dimmi, dimmi. Pronto, ciao, sono Valerio di Verona, 61 anni. Sì, questo non 34, c'è bisogno, non c'è bisogno di dirlo, a meno che tu non abbia problemi prostatici, diciamo. No, tranquillo, non c'è problema. Io anzi. Il mio, cioè, in che senso che trombi? Il mio di problema invece è che cioè tu trombi come un riccio? Ma riccio o non riccio, faccio il mio dovere senza problemi. Beh, allora, sei da capire, ma che ne sai, allora, che è da capire? Ma perché mi stai dicendo che è da capire? Sì, non ho capito. Ma sì, guarda che sei incredibile. Ma uno che millanta così, ma figurati. Vabbè, allora a me interessa solo parlare degli esaltati che hanno parlato ieri sera a Quinta Colonna. Sì. Io mi auguro che la gente abbia capito che questi sono dei fanatici. Speriamo, che non hanno nessuna, forse nati tra l'altro, che non hanno nessun dato certo, nessun dato concreto su cui ragionare. Ragionano solo su sensazioni, emozioni o sentimenti o interessi. Ma chi sarebbero questi? Non ho capito. Gli animalisti. Beh, amico mio, hai sentito che il livello qual è? Mocavero, questi, la Martani, le solite cose. Ma per carità. Tu che sei cacciatore, Valerio? Sì, sono cacciatore da 34 anni, la licenza. E la prima ma volta cosa cacci, amico? Quanti? Avevo 6 anni. Beh, siamo al top, ecco. Siamo al top assoluto. Avevo 6 anni la prima volta che ho ecco, sparato, amico mio, ma quindi... tu più o meno hai fatto una media di quanti animali hai ammazzato? I milioni che diceva la stronzetta di ieri sera lì. Cioè, quanti milioni, ma di che cosa parlano questi qua? Di milioni di animali ammazzati. No, ma quello magari parlano tutto, magari dicono tutto ma il mondo. Sì, no. Vogliono fare sensazione. No, tu quanti ne hai ammazzati? Ma vuoi che sappia quanti? Non ma posso che ne so, all'anno più o meno quanti ne ammazzi? Non posso, ma si parlerà di 100 uccelli, dai. 100 uccelli all'anno? Sì, diciamo un centinaio. Una cosa del genere. Dunque, in tanti anni da fare qualche cena in compagnia, punto e basta. Anzi, la consiglio a tutti, un buon spiedo di uccelli. A chi non l'ha mai provato, com'è lo spiedo di uccelli? Beh, straordinario. Lasciamo stare. Ma perché? Qual è il problema? Non uccelli, sì, piselli. Sì, fa dove anche il Tasa, va là che non sa un cazzo. Che il Tasa. Non sai un cazzo, dai, non sai un cazzo. Allora, il discorso è questo, guardate. Sì. Dopo che ci avranno fatti fuori noi, se ci riescono, questi qua, no? Sì, no, questo lo spiedo fatto fuori dalla storia. Prenderanno quei pescatori perché l'amo fa del male al pesce, eccetera. Se la prenderanno con gli allevamenti di bovini, di suini, di ovini, quello già lo fanno, poco informato. Sì, di allevamenti ittici. Già lo fanno, poco informato. E poi con i parchi zoologici. Già lo fanno, poco informato. Ma tasi un poco, Nemo, se sei di parlare, Padovan, tasi un attimo, basta che finisci a parlarmi prima, no? Già lo fanno, poco informato. Allora, ascolta, poco informato, sta attento un attimo. Il problema è che se la prenderanno poi anche con l'ippica, con i parchi acquatici, anche con gli acquari. Già lo fanno, anche a Genova, con poco la informato. A già fatto, le vetrine. Già fatto, bene. Già detto, già fatto, roba allora, vecchia. Perfetto. Allora, Parenzo, tagli un attimo, cazzo, ma te paghi solo per parlare, per niente. Ma Dio, diciamo dai, delle cose nuove, però. Ne avete parlati? Voi ne avete parlato anche voi? Che sono andati ad aggredire un anziano nei campi di Mantova e gli hanno rotto la veste. Allora, no? La cosa che voglio sapere da te, Valerio, tu, sì, alla ecco fine, la domanda. No, qua, alla fine, qua, che dicono che i cacciatori... sono praticamente frustrati, impotenti, questo dicono gli animalisti, che praticamente questo dicono, che non trombano e il loro fucile è l'estensione del pene che non funziona più. Te l'ha suggerito Parenzo che la cosa lì, beh, non fa niente, il discorso è che no, ma lo dicono loro, lo dicono loro. Lascia che dicano. Quello che conta sono i fatti, ognuno conosce i suoi e poi si vedrà. Queste cose hanno poca importanza. Quello che conta è che nessuno deve rompere le palle agli altri se uno ha un'idea. Ha ragione di portarsela avanti, ha ragione di coltivarsela, ha ragione di farsi la sua pubblicità, ma né di offendere né di aggredire. Questa è una cosa che non si può fare. Penso che siate d'accordo, tu e anche Parenzo. Ah sì, va bene, d'accordo, ho capito perfettamente. Valerio, ciao, ciao, ciao. Dai, Zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Che telefonano e dicono che hanno appena fatto l'amore con la zanzara in sottofondo, ma io dico boh, a parte sti cazzi, chi se ne frega, voglio dire, fatevi una canna. Ma poi come si fa a fare l'amore con la voce di Parenzo in sottofondo? Pepepepe, amico Rom, dottore, dottore. È l'antisesso per eccellenza, cioè proprio a me mi si asciuga tutto, mi manda in menopausa. Altro che squirting. Allora, Emilio Fede. Allora, gli avvocati sì. dello studio, lo staff di David Parenzo, presidente, hanno successo? Già, che dopo questo ultimo audio, dato mandato di denunciare il tal regista, tal la corte. Ma perché? Che t'ha fatto? Non ho capito. Senza dubbio, senza dubbio. Per questa vergognosa messa in onda non autorizzata, e quindi adiremo per le vie legali. Allora, Emilio Fede, sì. 4 anni e 9 mesi di carcere, richiesta del PM per avere ricattato Mediaset. La storia è abbastanza assurda, cioè avrebbe mostrato delle fotografie di alcuni dirigenti Mediaset con delle transessuali, fotografie che non esistono, fotografie false. E però li avrebbe costretti a raggiungere un accordo economico. Questa è la sostanza, nonostante la smentita della stessa Mediaset. Ma insomma, questo non ci interessa. Hanno continuato a chiamare Fede, cioè continuano ininterrotte le telefonate del signor Fede, le telefonate del signor Fede, cioè rivolte a Fede. Sai la gente che chiama Fede, no? Certo, la gente chiama di continuo a Fede. Forza cornuto. Direttore. Buongiorno direttore. Stavolta. Forza cornuto. Si va al gabbio, direttore. Si va al gabbio. Guarda che tu finisci in galera tu, capito? Io so chi sei, esattamente chi sei, perché lo fai, con chi sei collegato e dove stai. I carabinieri ti devono venire a prendere perché tu sei un mascalzone ricattatore, capito? Ma come si fa a ricattare Silvio? Capito, sì. Signor Fede. La voce fastidio. Però questa qui è la voce fastidiosissima. Matteo, provincia di Gorizia, vai, vai. Allora, buonasera. Dimmi. Buonasera Parenzo. Dimmi. Allora, siccome stiamo parlando troppo di politica, volevo raccontare un piccolo aneddoto. Ma non mi sembra che parliamo di politica. Non comunque, mi pare. Comunque, vai. Il core business di questa trasmissione. Insomma, ero in vacanza giù a Roma con degli amici. E questo mio amico riesce a broccolarsi una ragazza giapponese. Sì, allora? Premetto. Adesso arriviamo pure a raccontare come la gente rimorchia. Allora? Non sapeva parlare molto bene l'italiano. Questo mio amico se l'è portata in camera d'albergo, io ero nella stanza a fianco, quindi sentivo tutto. Certo. E nell'atto di mentre lei era a pecora. Sì. Ma lei come fa a sapere questo dettaglio? Come fai a saperlo, scusami? È curioso, spiegami. Visto che perché lei stava poi, in un'altra perché camera. Poi me l'ha raccontato il mio poi amico. Gliel'ha raccontato l'amico. È un racconto relata refero, diciamo, su, no? Di seconda mano, di seconda mano. Va bene. Insomma, arrivo al dunque. Cosa che non è riuscito a fare mio amico, appunto. Perché nell'atto pecoreccio, insomma, lei subiva un po' una forte pressione, quindi sentiva del dolore. Cioè? Ma non riuscendo a parlare molto bene l'italiano, non se n'è uscita con la frase "mi stai facendo male". Pensi, ha urlato: "Io un po' malata". Il mio amico, cazzo, che quello si è spaventato. Sì, è un racconto imperdibile. Parecchie bestemmie. Cioè, non ho capito. Allora, perché ci dovrebbe interessare questo racconto di una trombata tra un tuo amico, e una giapponese? Ma di che stiamo parlando? Così, un aneddoto divertente. Così. Giacomo, provincia di Roma. Dai, Giacomo, dimmi. Ciao a tutti, buonasera. Vai, ciao, dimmi. Davide, ciao Giuseppe. Dimmi. Volevo dire giusto un paio di cose così al volo. La prima è che pratico dell'autoerotismo da qualche giorno, da quando Zuccaro ha fatto capire che lui ha le prove, ma non le può esibire perché ovviamente gliela ha passate o i servizi segreti italiani o comunque la Guardia di Finanza o chi per loro. Vabbè, ma che c'entra l'autoerotismo? Che c'entra l'autoerotismo? Pratica autoerotismo perché vedo gente come tanti invitati, non facciamo i nomi per educazione, che si arrampicano sui muri, alzano la voce, balbettano. Poletti che prima condanna, poi dopo fa marcia indietro perché capisce che ovviamente la merda più la muovi più esce fuori. Ma no, chi Poletti? Quindi, chi? Non ho capito. Di cosa parli? Io non riesco prima a seguirla. Ma Poletti chi? Il ministro? Prima, ma che c'entra? Certo, ma come? Cosa ma c'entra prima con dice, questa vicenda il ministro? Scusa. Ma come? Prima di condanna il magistrato che gli dice che non deve... Ma di cosa stai parlando? Che c'entra Poletti con questa roba qua? Lei sta facendo un qua po' di confusione. Ma cosa me dici? Sono state fatte delle dichiarazioni, se non sbaglio. Ma non lo so, ma chi se ne frega di quello che ha detto Poletti? Faccia un po' di confusione. Vabbè, ma che vuoi allora? Dimmi che vuoi, dimmi. La seconda è questa. Pure un'altra. Strano, poi ovviamente sembrerà strano, poi ovviamente potete andare pure a confermare. Sono molto giovane, però ho in mano una media impresa italiana qua a Roma che lavora nel settore dell'alimentare. Sì, tu hai in mano il cervello bagato, sì, più che altro. Vabbè. Vabbè, allora? Comunque c'ho un bel po' di dipendenti. Quest'anno sono un po' boldrinizzato, ho provato a prendere un po' dei nigeriani così per provarli. Allora? Insomma, abbiamo sfatato il famoso mito dei nigeriani, di questi qui che vengono, che ci dovranno pagare le pensioni. Le pensioni non ce le pagheranno mai perché questi hanno fatto un contratto 8 mesi perché fortunatamente avevano permesso di soggiorno, tutto quanto, tutti i documenti. E allora? E hanno fatto la domanda di disoccupazione. Cioè loro quello che hanno versato allo Stato, tutti i contributi che hanno versato, adesso se li stanno riprendendo bellamente facendo giri. Va bene, arrivederci, ciao Giacomo, mi hai rotto il cazzo, via. La roba pazzesca, chiamiamo il direttore, dai Fede, dai, hanno chiesto 4 anni di condanna, 4 anni e 9 mesi, chiamiamolo, dai, vediamo che c'ha da dire, 4 anni e 9 mesi per ricatto Mediaset. Emilio? Che? Cruciani, come andiamo? Parenzo. Ciao. Amico mio. Mamma mia. Ma che è successo? Che mamma è successo? Mia. Guarda, per adesso non è successo niente, ma se mi mandano ai servizi sociali voglio andare a Monte Carlo. Ma come? A Monte Carlo ai servizi sociali? Sì, no, con tutto questa caterva. 4 anni e 9 mamma mesi mia è rotti. Ma che roba è? Ma che roba è? Io ho incontrato il pubblico ministero della mia vita. Com'è il pubblico ministero della tua vita? Te vuole mandare in galera quello? Che pubblico ministero della tua vita? Ma sì, ci può essere qualcuno che ci può credere a tutte queste cose. Ma amico mio, ma saresti stato autore di un ricatto? Hai ricattato i vertici di Mediaset con Falonieri, Signor Crippa, un sacco di gente ricattati da Fede, secondo questa secondo l'accusa. No, però abbiate pazienza. Cerco di rispettare i nomi che avete fatto. Perché non soltanto perché non l'ho ricattati, ma perché non meritano di essere travolti in queste pettegolezze, in queste sfruttate. Ma scusa, loro che c'entrano? Loro sarebbero vittime. Scusa un attimo, scusa, però Emilio, ma questo pubblico ministero, questo giudice, perché ti accusa allora? Mi offrono 6 milioni di euro per lasciare il TG4 e diventare direttore editoriale di tutto. E io ho bisogno di ricattare, ma che ricattare? Ho capito, ma poi alla fine pare che qualcosa l'hai ottenuta da questa vicenda, 800.000 euro. Ma neanche per sogno, io sono disoccupato da 4 anni, non sono uscito senza un euro, non ho avuto preso neanche la liquidazione. Tutte ma ho capito, amico mio, intanto... Ma perché capitano tutte a te? Questo è incredibile. No, però la cosa è incredibile. Allora, sai, Sai a chi capitano? A chi capitano? E toccatevi le palle a tutti quelli che diventano famosi. Tu hai ricattato Mediaset, sì o no? Ma stiamo scherzando. E si perché scopriva. Allora questa qua dice che tu hai fatto pressione e minacce per avere un accordo più vantaggioso? Perché lo dice? No, lo dice? No, lo dice, lei riporta. Ma riporta, quello fa pubblico ministero, che fa il notaio di qualcuno, scusami. No, riporta le vicende raccontate da quel delinquente. Scusa, accordo allora, più vantaggioso con una buonuscita di 820.000 euro e un contratto di collaborazione di 3 anni. Ma non esiste. Ma scusa, ma che si è inventata i soldi? L'avrei presi questi soldi, ma o no? Ma non è vero, ma lo sapete anche voi. Cioè tu questi 800.000 euro l'hai presi, sì o no? Mai, neanche un euro. Ma perché lo scrive questa qua? Vattelo a chiedere perché l'ho scritto. E che ne so, perché lo scrive che hai preso 800.000 euro? Avrà fatto delle indagini, no? Io spero che Mediaset intervenga a dire che non mi ha dato neanche un euro. Ma tu te lo immagini in galera, tu alla tua età, in galera? Come te lo immagini la galera? In galera io mi immagino non in galera, perché considerata l'età. Tu dici io col cazzo alla fine che vado in carcere, possono pure chiedere 4 anni, ma tanto no, col cazzo. Ma io non ci penso neanche, naturalmente io voglio uscire da questa vicenda. No, ma dico, anche se fosse tu 4 anni col cazzo che ci vai in carcere. No, ma io non voglio neanche 4 giorni. Prendi un avvocato importante, signor Taormina, sì, per bravo. Esempio, no? Sì, bravo, così gli danno. Sì. Cioè, allora c'ho Panitz e poi c'ho anche Ma prendi Taormina, dai, grande battaglia. Ma guarda, un grande processo, guarda, facciamo saltare tutto al banco. Ma quale banco? Scritta, ha detto in tribunale, Emilio non mi ha mai ricattato. E vabbè, allora io si dovrebbe chiudere là, in teoria. Questi invece chiedono 4 anni. Bah. Sarà perché sei Emilio Fede. La realtà è che ti accusano perché sei Emilio Fede, o no? Esatto, bravo, è solo per questo. Solo ah, per benissimo. Questo. Allora, diciamolo, mi accusano perché sono Emilio Fede. Mi accusano perché sono Emilio Fede, messo in croce da anni perché sono Emilio Fede. Ma sei preoccupato di finire in galera? Ma neanche io, no, non ci finisco. Anche Lele Mora è finito in galera, anche se ho Lele Mora. Vabbè, se permetti, fra me e Lele Mora c'è una bella differenza. Che differenza c'è, scusa, tra Lele Mora? La differenza è che io sono un giornalista come voi e lo sono da 60 anni. E lui? E lui? Io ho una storia. Una storia. E lui? È lui che fa il giornalista. Fa e beh, che c'è? Ricordatevi che siamo con lui. Non ho preso un euro, devi dire così. Io non ho preso un euro! Gridalo! E chiunque sostiene che ho preso un euro è un testa di cazzo. Non ho preso un euro! In culo. Ma perché? Pure adesso, vabbè, questo adesso. Da nessuno. Non lo devi gridare forte. Questo vada a fare in culo. Chiunque sostenga questo. Ma amico mio, lo sostiene la procura che hai preso che hai fatto un accordo più vantaggioso. Non so chi l'abbia detto, chiunque abbia detto che io ho preso dei soldi, vada a fare in culo, bastardo di merda. Addirittura, perché bastardo di merda? È un po' forte, scusami. Questo, però insomma. Bastardo può essere di merda. Vabbè, ciao. Buona serata, ciao. Ha sbroccato la fine, non ho capito, è impazzito. Ha sbroccato. Chiunque dica che ho preso dei soldi è un pezzo di merda, una testa di cazzo. Vabbè. Questo è in precedenza. Però io sono rimasto incuriosi. Che è successo? Danilo, provincia di Bologna, che è? Io lo capivo, io lo sapevo. Che poi, lo sapevo. Chiudi, io devo andare in mano. Dimmi che aprivo una cataratta. Ma non è una cataratta. Tu devi sapere che a Bologna c'è l'università di quello che tu dici. Cioè? E io sono il dito nel culo. Cioè, in che senso l'università? Scusami. C'è l'università, qui c'è l'università della leccata di figa. Vabbè, ma che e del dito nel culo. C'è che c'è una specialità, una specialità felsina. È una specialità che insegna all'università dei vecchi frequentatori dei casini. Dottore, sì. Rantola, dottore. Dottore, rantola, pentella, dottore. Tu devi spiegare a Pareto che queste cose non le sa. Nella bocca, che dottore, dovrebbe venire qua a imparare queste cose dalle persone che sanno come si fa. Primavera. Non dottore, lui che non male? Sa queste cose qua. Dottore, lui si occupa solo dei neri, si occupa dei rom che magari potrebbero avere qualche idea, ma magari hanno un odorino un po' diverso, che forse a Parenzo gli darà fastidio. Dottore, no? Non l'antoni o gli piace così. Magari. Ma non ho capito, tu, Danilo, sei uno specialista del dito in culo? E della leccata di figa. Vabbè, dottore, la prego, li animate, dottore, mio dottore che è venuto. Che dicono che sei un grande cacciatore di figa, non sai da dove si ma comincia sì, d'accordo. La leccata di figa. Allora, no, vabbè, si può iniziare ovunque in realtà. La no, cosa... no, allora vedi, vabbè, già, adesso, già, non qui è che sei, per, che sei, già qui non che hai sei neanche un professore 18. Emerito, sei un professore sì, emerito. Non hai neanche 18 se dici si può iniziare ovunque, perché c'è un punto ben preciso. E quale, dove inizierebbe la leccata? Dove inizierebbe? Quella è svenuta. Tanto il dottore Dodole, ma mi è molto forte. È quel posto che probabilmente piace a Parenzo. Dodole. Cioè, si inizia da dietro, dal sedere. Si inizia da dietro, perfetto, perfetto. Ora non le spira più, prima iniziare da dietro. Molto, molto, clinicamente molto sembra. Però Parenzo mi sa che faccia questa voce perché ogni tanto si schiude, si apre, probabilmente ha qualche Cledi provincia di Pisa, è svenuto per terra. Cledi provincia di Pisa, ecco, dai. Rianimate, filippino del cazzo, rianima, dai, su, cioè, sennò altrimenti anche Serbi. Cledi provincia di Pisa, che è convulsione. Ciao. Dimmi, Cledi, sono stato malissimo. Ecco, sono un camionista, per dirlo a Parenzo, di 22 anni. Sì. Camionista di 22 anni, sì, dimmi, caro Cledi. Un albanese anche. Albanese, allora? Dalla parte di Crociane, diciamo. Finora lo squirting l'ho visto, l'ho provato. Cioè, hai già provato lo squirting a 22 anni poi? Sì, ma l'ho squirtato addosso, ma il dito in culo ancora non l'ho provato. Vabbè, amico, non si preoccupi, stasera quando torna a casa qualcuno provvederà, guardi, non si preoccupi. E allora non so se la fidanzata lì, ce l'hai la fidanzata? Passamela un attimo. No, è albanese, quindi parla poco italiano. È uguale, albanese, uguale, fammici parlare, io parlo benissimo l'albanese. Io intanto vado. Aspetta, perché... aspetta, come si chiama questa qua? Bianca, ma è il nome italiano. Bianca, ok, uguale. Chiudi la corte, chiudi, che qua te genera. Dammela! La corte, chiudi. Dammela, chiudi. Bianca, voglio parlare la con Bianca. Corte, se no non chiudo, ordino, non chiudo. La corte, non ti ordino di chiudere. La corte, vai via, Asmodeo. No, Cledi, passami Bianca un attimo, un secondo. Cledi, vai via, Asmodeo. No, vado via, Parenzo, sono la maggioranza silenziosa, però il dito in culo lo voglio, lo dico. Bravo, Cledi! A domani, ciao! Ma lascia stare, che dica che parlo anche il taso, va là che non sa un cazzo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. Libera la voglia di fare. Naturalmente.